Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Sono un poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù, basta un poco di zucchero. Mary Poppins forse oggi potrebbe essere accusata di promuovere il consumo di un alimento dannoso, pericoloso per la salute e a rischio di creare dipendenza come il tabacco e l'alcol. E questo è il messaggio lanciato da un gruppo di ricercatori dell'Università di California sulle pagine di una rivista scientifica molto prestigiosa, Nature. Secondo gli autori, lo zucchero non solo fornisce calorie vuote, senza alcuna utilità dal punto di vista nutrizionale, ma a lungo andare ci fa ammalare. Quindi c'è da farsi mandare di traverso la brioche o il caffè. Appunto, quel caffè se l'abbiamo zuccherato. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno, dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Che il caffè lo prende rigorosamente amaro perché lui di aggiunte non ne fa. Questo posso dirvelo perché ho preso più volte il caffè col dottor Ongaro e mi sono sentita quasi in colpa ad aggiungere a zuccherare il mio perché lui lo prende amaro. Beh, ma il caffè degli intenditori, Nicoletta, è amaro, perché si apprezza il gusto del caffè soltanto se si evita di aggiungere lo zucchero, al di là del discorso salute di cui parleremo in questa puntata. Ma in linea con noi abbiamo anche il dottor Andrea Scaramuzza, responsabile del servizio di diabetologia alla clinica pediatrica Università di Milano, ospedale Luigi Sacco. Zuccherato o amaro, dottor Scaramuzza? Dalla sua risposta noi capiremo la sua posizione nei confronti di questo alimento che gli americani negli ultimi tempi mettono pesantemente sotto accusa. Intanto buongiorno e buon caffè eventualmente. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io personalmente prendo il caffè senza zucchero. Un altro. Però non demonizzerei l'aggiunta di una piccola quantità di zucchero nel caffè. Dottor Scaramuzza, di zucchero comunque ne consumiamo tanto. Troppo forse, questa è l'indicazione che possiamo dare e di cui parleremo nel corso della trasmissione. Lei come diabetologo che posizione prende? Ma sicuramente lo zucchero, soprattutto quello che si aggiunge di solito ai cibi, che è uno zucchero raffinato, in questo periodo è consumato in maniera eccessiva. E la riprova è il fatto che è in grande aumento il numero delle persone con obesità. Non mi riferisco solo ai bambini e agli adolescenti, ma anche agli adulti, e sicuramente il consumo eccessivo di zucchero, l'obesità, la sedentarietà sono poi l'anticamera per il diabete di tipo 2. Quindi mi allineo con quanto pubblicato dai colleghi che hanno appunto effettuato la ricerca uscita su Nature. Bisogna consumare zucchero, ma bisogna consumarne possibilmente degli zuccheri buoni, pensiamo alla frutta che già contiene zucchero, e bisogna cercare di limitare il più possibile l'aggiunta invece di zuccheri raffinati. Dottor Ongaro. Ma sì, io sono assolutamente d'accordo. Credo che il problema principale stia proprio in quest'uso di piccole quantità. In realtà degli studi anche recenti dimostrano che forse proprio questo è il problema, cioè non tanto l'essenza dello zucchero in quanto tale, ma che è difficile controllare l'utilizzo dello zucchero perché è un po' una di quelle sostanze che quando ti abitui ad utilizzarla ne vai in cerca sempre di più. In realtà lo zucchero, insomma, non è un alimento per noi necessario, come diceva il collega, c'è molto zucchero in alcuni cibi naturali che possono rientrare quotidianamente nella nostra dieta, per esempio la frutta, e dovrebbe essere quella la nostra fonte assieme ai cereali, specialmente se di tipo integrale, e dovrebbe essere un uso limitato invece di questo zucchero aggiunto, che peraltro troviamo in molti alimenti anche a nostra insaputa oggi. 800 24 00 24, se volete intervenire. Ma dottor Scaramuzza, è bene quindi controllare la quantità di zucchero che aggiungiamo e assumiamo con la dieta, ma è importante anche misurare lo zucchero che abbiamo nel sangue. Questo significa controllare i valori della glicemia. Basterebbe un semplice esame del sangue, dottore? Assolutamente sì. Ci sono ormai raccomandazioni che arrivano dalla Società Americana di Diabetologia, che è sicuramente una delle istituzioni più accreditate in questo campo, che ci dicono che una glicemia normale, indipendentemente dall'età, è una glicemia al di sotto di 100 mg per decilitro. Ci sono poi dei valori che potrebbero essere considerati borderline, e qua invece la glicemia supera i 124 mg per decilitro, soprattutto se l'individuo che fa questo controllo è a digiuno, sono già sintomi. Con un banale esame del sangue noi possiamo tenere sotto controllo la nostra situazione della glicemia e quindi anche della nostra salute. Ma se la glicemia è un po' fuori il valore, se riduco lo zucchero, la glicemia scende? Se la glicemia è un po' fuori valore, riducendo la quantità di zucchero, soprattutto quella di questi zuccheri raffinati, sicuramente la nostra glicemia scende e quasi sempre rientra nella normalità senza la necessità di prendere farmaci. Grazie dottor Scaramuzza per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi. E mi auguro di sentirla presto. 800 24 00 24 se volete confrontarvi con noi, e proviamo insieme a pensare quanto è dolce la nostra giornata, dallo zucchero che mettiamo al mattino nel caffè, nel nostro tè, alla bevanda magari zuccherata che assumiamo per calmare magari, che ne so, la sete, anche se sappiamo, dottor Ongaro, che non è un modo intelligente, perché poi la sete viene ancora di più, no? Dopo una bevanda zuccherata, ma anche succhi di frutta, biscotti e altro. Lo zucchero si nasconde non solo negli alimenti che noi avvertiamo dolci, ma in una serie di infinita di altri alimenti. Lì è facile cadere. Dottor Ongaro. Beh, se uno pensa che a guardare bene le etichette, raccomandiamo sempre ai nostri ascoltatori di imparare a leggere le etichette perché sono l'unico modo per proteggersi da certe piccole trappole, e scopriamo che lo zucchero lo troviamo in alimenti come il salmone affumicato, come la senape, come i concentrati di pomodoro. Quindi quando noi sommiamo lo zucchero che utilizziamo consapevolmente, quello aggiunto negli alimenti a nostra insaputa e poi una grande quantità di cereali raffinati, pasta, pane e riso bianchi, diventa un carico complessivo degli zuccheri nella nostra alimentazione assolutamente eccessivo. Quindi per lo zucchero come per il sale è necessario abituarsi progressivamente dei piccoli cambiamenti. Quali sono quelli che rendono di più, dottor Ongaro, dovendo fare dei sacrifici? Dove abbiamo la massima resa col minimo sforzo? Ma credo che ci voglia una piccola strategia operativa. In primo luogo, soprattutto per quelli che utilizzano molto zucchero, consiglio di ridurlo con calma, perché ci sono dei veri e propri sintomi da astinenza da zucchero, come per esempio il mal di testa. Poi cominciamo col evitare lo zucchero negli alimenti appunto a nostra insaputa. Controlliamo le etichette, scegliamo le versioni che sono prive di zucchero. Poi possiamo passare a degli zuccheri un po' più naturali, per esempio al posto dello zucchero bianco il miele. Poi possiamo provare ad introdurre dei nuovi dolcificanti che sono ancora, diciamo, sono oggetto di grande interesse, come la stevia, che è un dolcificante naturale, secondo me sicuramente più accettabile dei dolcificanti precedentemente in commercio, anche se non ottimale, cioè non prendiamolo come scusa e allora prendiamo tutti la stevia, no, abituiamoci a gusti più amari, poi nei casi eccezionali c'è anche questo che possiamo utilizzare. E poi, secondo me, molto importante, impariamo ad utilizzare lo zucchero che c'è in natura, come diceva il collega diabetologo, cioè abbiamo moltissima frutta che contiene fibra, fruttosio, antiossidanti, vitamine, che è buona e dolce, impariamo ad apprezzare quella. 800 24 00 24, abbiamo in linea Stefano da Brescia e poi Francesca da Firenze. Stefano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie dello spazio. Ascolti, volevo fare una domanda molto semplice. Viste le scarse proprietà nutritive dello zucchero, il fruttosio industriale, quello che si può comprare al supermercato, ha più proprietà nutritive dello zucchero o è equipollente? Grazie Stefano. Dottor Ongaro, il fruttosio. Ma allora, guarda, il fruttosio secondo me è uno di quegli zuccheri su cui c'è stata un po' di confusione. Insomma, in realtà non apporta dei grandi vantaggi, apporta dei vantaggi se è presente nella frutta, cioè la frutta col fruttosio sì. E lì la ragione è che la frutta è un alimento completo e ha anche altre cose rispetto al fruttosio, ma se io estraggo il fruttosio e uso quello al posto dello zucchero tradizionale non ho alcun vantaggio, e anzi alcuni dati sembrano indicare che possa essere addirittura svantaggioso utilizzare il fruttosio. Francesca, buongiorno da Firenze, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. sono contenta di aver sentito il dottore che ha detto che lo zucchero è ovunque. Io ho un bambino piccolo e ho fatto una specie di guerra allo zucchero. Non si possono comprare sottaceti, non si possono comprare niente che ci sia scritto sopra per bambini, dai succhi di frutta alle polpine di frutta, perché il secondo ingrediente dopo l'acqua è lo zucchero. È ovunque lo zucchero, in qualsiasi panificato. Pronto, mi sente? Sì, no, la stavamo sentendo, Francesca, infatti il dottor Ongaro, abbiamo fatto un po' la stessa, se ci misuriamo anche con il sale, e noi abbiamo dedicato delle puntate sulla riduzione, no, dei pizzichi di sale quotidiano, abbiamo visto che in effetti è difficile non assumerlo, anche con alimenti, come diceva il dottor Ongaro, insospettabili, come la senape, anche nel salmone, vero dottor Ongaro? Sono assolutamente d'accordo. Del salmone affumicato. Assolutamente, sono d'accordo con Francesca. Purtroppo in moltissimi dei prodotti industriali che troviamo correttamente in commercio c'è una quantità di zucchero assolutamente alta. Riguardo al sale, è stato stimato che probabilmente il 70-75% del nostro introito di sale deriva da alimenti più che dal sale che noi mettiamo consapevolmente nell'insalata o nella pasta, quindi sicuramente è un problema e bisogna sperare che maggiore consapevolezza porti ad una correzione di questo tipo di presenze negli alimenti. Certo, passetto dopo passetto. Allora, cari amici, ditemi se e come assecondate la vostra voglia di dolce, cosa usate per dolcificare bibite e bevande, e in linea con noi c'è la dottoressa Paola Reverso che ci suggerirà sostituzioni intelligenti. Buongiorno dottoressa Reverso. Buongiorno. Nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te. Dottoressa Reverso, oggi avremo da lavorare perché parleremo di tutte dei piccoli escamotage che ci permettono di arrivare a ridurre progressivamente lo zucchero, almeno quello che aggiungiamo consapevolmente nei cibi. E soprattutto, oltre a questo che è assolutamente importante, lo faremo in un modo molto rilassato e scopriremo dei sapori nuovi, perché il piacere comunque va sempre soddisfatto. Nicandro, buongiorno, ci chiama da Brescia. Benvenuto, Nicandro. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a lei. È zuccherato lei? Insomma, un pochino, ogni tanto sì, qualcosina. Sì. Mm. Volevo fare una domanda al professore. Volevo chiedergli se per chi fa un'attività sportiva comunque moderata e a livello molto amatoriale è comunque consigliabile prendere degli zuccheri aggiunti oppure è sconsigliabile. Ecco, perché lei dice io faccio una corsetta e poi mi mangio una bustina di zucchero, in che senso Nicandro? Per sì, tirarmi un po' su, perché sennò vado giù, così si dice. Sì, oppure che ne so, zuccherare molto il caffè, il cappuccino, quelle cose lì, insomma. Mm. Dottor Ongaro, questa è una domanda per lei. Voglio vedere come risponde e cosa risponde a Nicandro, perché molte viene quasi istintivo, no? Faccio uno sforzo fisico per tirarmi su, soprattutto se mi sento stanco, prendo qualche cosa di zuccherato. Direi di no, Nicandro, nel senso che questa è un'altra di quelle teorie, di quei luoghi comuni che abbiamo da tanto tempo, che alcuni organi hanno bisogno di zucchero, il cervello, i muscoli, quando si fa attività fisica, è sicuramente vero sul piano biochimico, ma quello zucchero che usano se lo procurano da sé attraverso delle reazioni metaboliche da alimenti più complessi. Quindi nel caso dello sportivo è molto più importante mangiare una quantità sufficiente di cereali, possibilmente integrali e di proteine, ovviamente sempre la verdura e la frutta, ma l'idea di recuperare energia attraverso zuccheri ad assimilazione veloce secondo me non è corretta, anche perché ricordiamo, Nicoletta, che ogni volta che io faccio questo, se il mio pancreas funziona, produrrà una quantità enorme di insulina che porterà di nuovo quella glicemia ad un valore molto più basso. Certo. Quindi io in realtà c'ho un'altalena in questo modo, no? una sorta di montagna russa della glicemia che non è utile a fine energetico. Ma diamo un suggerimento, dottoressa Reverso, a Nicandro, che evidentemente dopo uno sforzo fisico ha bisogno di qualche cosa che lo gratifichi, che lo faccia tornare su. Semplicemente potrebbe prendere dei frutti di bosco, adesso arriviamo nella stagione dove li possiamo gustare freschi, lampone, mirtilli, ribes, more, frullarli, aggiungere alcune 1 o 2 cucchiai di succo di mela, limpido, senza zucchero, e magari qualche spezia, cannella, zenzero, avrà così, poi aggiunge dell'acqua, avrà così una bibita energetica che gli ripristinerà anche gli zuccheri persi. Dal sapore lievemente dolce. Dal sapore lievemente dolce, perché i frutti di bosco, soprattutto i lamponi, danno quel buon sapore dolce che gratifica molto. Volendo poi si può anche, invece di aggiungere l'acqua, prendere questo frullato di frutta che sotto forma di purè che si presenta così, aggiungerci dello yogurt e magari dei fiocchi d'avena. In questo modo si fa addirittura uno spuntino. Con i fiocchi d'avena diamo anche delle fibre. Prima di andare a correre la mattina e dopo aver corso, un cucchiaino di miele. Vogliamo aprire una parentesi sul miele? Molti ascoltatori me lo stanno chiedendo al 349-238-6666. Un ascoltatore che è un nostro amico di Facebook oggi mi ha scritto un post, potete leggerlo, metto le mani avanti. Secondo la medicina cinese il miele non va riscaldato perché non fa più bene come prima. Lui dà una spiegazione precisa, ma dottor Ongaro, il miele ce lo possiamo permettere? Poi affronteremo se il miele intiepidito, riscaldato, può in qualche modo perdere il suo valore nutrizionale o addirittura nuocerci, come ci segnala il nostro ascoltatore. Ma allora, come dicevo prima, il miele sicuramente è un alimento più naturale e ha delle proprietà che lo zucchero classico da tavola non ha. L'effetto però sul metabolismo del miele non è diverso rispetto all'effetto dello zucchero, quindi torniamo allo stesso discorso: se riusciamo ad utilizzarlo in maniera moderata è sicuramente meglio rispetto allo zucchero raffinato, però sul piano metabolico ci dà gli stessi effetti. Riguardo alla temperatura, tutti gli zuccheri vanno incontro ad alcune alterazioni, si chiama un processo di glicazione. Che può rendere lo zucchero stesso, diciamo così, un po' più nocivo di quello consumato invece in forma naturale, non surriscaldato e riscaldato. Marcello da Fermo, buongiorno. Marcello, buongiorno. Buongiorno. Marcello, le chiederei di accompagnarmi a sentire i mercati e il meteo. Mi accompagna? Spero di sì, se non mi lascia la batteria. Va bene, perché non potremo darle la risposta. Ricordo che anche oggi, come nei giorni scorsi, l'invito è di compilare il questionario di Mangia con me. Oggi abbiamo il dottor Ongaro e la dottoressa Reverso che ci hanno accompagnato in questo reality, questo coaching alimentare di Essere Benessere, che ha avuto, e vi ringrazio, grande successo e che sicuramente, mi auguro, potremo riprendere. Compilate il questionario, se l'avete fatto, se volete farlo da adesso in poi, ricordatevi, mandate una mail quando sentite un messaggio al 349-238-6666 con la mail con cui avete compilato il questionario e potreste ricevere a casa la Sugar Box. Voglia di dolce, oggi insieme al dottor Filippo Ongaro e alla dottoressa Paola Reverso. Dottoressa Reverso, dobbiamo imparare a ridurre lo zucchero. Lei nelle ricette di Mangia con me ci ha preparato delle torte proprio senza zucchero e questo è già un modo, no, per avvicinarci a tutte quelle ricette che riescono ad esaltare proprio il sapore degli alimenti che lei ad arte combina. Ci dà anche qualche altro trucchetto? Ci ha detto ad esempio di utilizzare i frutti di bosco. Sappiamo che però i frutti di bosco, come mi segnala una cara ascoltatrice, costano un botto in questo momento. Altra frutta dolce, però magari più a buon mercato, sono le albicocche. Sono le albicocche e tra poco avremo anche le pesche che possono aiutarci, abbiamo ancora le fragole, anche queste possono essere un valido aiuto. Teniamo conto di una cosa, adesso i frutti di bosco poi avremo la stagione piena in agosto, luglio-agosto, possono essere anche un'occasione per andare a raccoglierli. E quindi così facciamo anche un po' di attività fisica. Senta dottoressa Reverso, diamo degli input ai nostri ascoltatori, qualche allora ricettina, ad esempio io amo la frutta, però viene nelle macedonie, è facile aggiungere quei cucchiaini di più. Che cosa possiamo mettere? Allora, possiamo mettere, per esempio, quando prepariamo una macedonia, possiamo mettere delle nocciole tostate, tritate, mescolate con della farina di mandorle oppure, se preferiamo, con della farina di cocco. Altrimenti un'altra alternativa potrebbe essere quella di mettere, quando prepariamo la frutta per la macedonia, aggiungiamo alcune gocce di aceto balsamico. In commercio si trova un altro aceto che si chiama agrodolce di mela, deriva dalla mela. Bastano proprio poche gocce, mescolare bene, lasciarle magari in frigorifero per una decina di minuti e poi si possono gustare, perché l'aceto sprigiona proprio tutto il succo e la dolcezza della frutta. Marcello, l'abbiamo ripescata, buongiorno da Fermo, ci ha aspettato, era in linea prima dei mercati, 800240024. Marcello, benvenuto. Allora. Buongiorno, volevo chiedere questo, lo zucchero di canna rispetto allo zucchero tradizionale ha un indice glicemico più basso? Dottoro, è preferibile usarlo al posto del bianco? Sì, dello zucchero bianco? Dottor Ongaro. Ma sì, siamo sempre nell'ordine del male minore, no? Cioè, nel senso che secondo me le differenze sono abbastanza irrisorie. Poi, se devo rispondere alla domanda secca, sì, è meglio. Però, ripeto... Perché è meglio? Cioè, è un meglio che non ci deve invitare a consumarne di più. Ma è proprio questo, Nicoletta, il problema. Cioè, nel senso che quando noi diciamo è meglio, ovviamente il messaggio che rischia di passare è quello, allora lì non ci sono problemi. Ma non è così. E direi che non è così nemmeno per i dolcificanti naturali, come per esempio la stevia. Cioè, tutto questo è comunque un compromesso. Molto meglio abituarsi a dei gusti meno dolci. Però, voglio dire, anche... quello che stava dicendo adesso la dottoressa Reverso, credete a quello che diciamo, è possibile godersi l'alimentazione anche senza un uso massiccio di queste sostanze. Cioè, ecco, non è io una penso cosa che, dottor Ongaro, magari noi facciamo più fatica, ma potremmo iniziare questo cambiamento, soprattutto se abbiamo dei bambini, e aiutare già i bambini ad avere la piacevolezza di mangiare degli alimenti senza aggiungere troppo sale o troppo zucchero. Lei non mi toglierebbe il troppo e mi metterebbe senza sale, senza zucchero, come insegna, a proposito di bambini, la dottoressa Reverso nel libro, ve ne abbiamo regalate anche alcuni, Ludovica e la foresta dei cristalli di zucchero, sono tutti dolci, pensate, preparati senza neanche un grammo di zucchero, di cui però i bambini vanno ghiotti, quindi è proprio una questione di abitudine. Dottor Ongaro, ma se invece per ridurre la quantità di zucchero io mi rivolgessi ai prodotti dove in etichetta c'è scritto senza aggiunta di zuccheri, o le bibite senza zucchero, è un compromesso? Faccio bene? Beh, no, certo, quella deve essere la nostra scelta. Poi anche qui ci sono delle scale di valori, cioè è chiaro che la frutta intera, per esempio, è meglio di un succo di frutta, però certamente il succo di frutta, se lo devo scegliere, posso scegliere quello senza aggiunta di zuccheri. Cioè, ricordiamo anche che quel commento che ha fatto la signora di prima, che ti ha scritto, diceva sì, ma i frutti di bosco costano molto. Beh, attenzione, perché anche qua, certo, è vero, però lo zucchero invece ha il difetto contrario, cioè che costa troppo poco, quindi l'industria non ha alcun incentivo a produrre in maniera migliore proprio perché gli costa meno. Il succo di frutta con l'aggiunta di zucchero e acqua, perché credete che venga fatto? Perché si mette dentro meno frutta, quindi si risparmiano dei soldi. Quindi c'è tutto un discorso più complesso dietro a questo, no? Allora, se possiamo scegliere, noi dobbiamo scegliere ciò che tutela la nostra salute, e piano piano i prodotti saranno sempre più presenti a rispetto di questo criterio, mio modo di vedere le cose. Marcello, buongiorno da Pavia, benvenuto. Buongiorno, complimenti intanto per la trasmissione, che è sempre molto bella, e in questo periodo dove siamo sommersi di brutte notizie, spread, disoccupati, cioè... ci vuole a metà giornata un po' di relax personale. Marcello, lei posso dirle, è un vero dolcino. Ecco, esatto, ecco, bravissima, a proposito. Bravissima. Allora, la mia domanda è delle marmellate, specialmente quelle casalinghe. Sì. Ci sono dei buoni consigli per ridurre lo zucchero senza penalizzare il prodotto, che poi si consuma inevitabilmente sempre nel giro di qualche mese, quindi non va mai oltre... voglio dire i 12 mesi, insomma. Certo. Grazie, vi ascolto la radio. Grazie Marcello per essere intervenuto. Dottoressa Reverso, questa è una domanda per lei. Allora, possiamo fare delle marmellate in casa usando pochissimo zucchero, però dobbiamo avere la pazienza, ahimè, di farle cuocere a lungo. A lungo cosa vuol dire? A lungo significa almeno una decina di ore, sì. Perché in questo modo si evapora tutta l'acqua contenuta nella frutta. Se invece vogliamo ridurre la cottura, possiamo aggiungere delle fettine di mele. Per qualunque tipo di frutta noi prepariamo la marmellata, aggiungiamo delle fettine di mele, possibilmente con la buccia, quindi acquistiamo mele biologiche o comunque proveniente da lotta integrata, e le aggiungiamo perché la mela ci aiuta ad addensare. Un altro stratagemma è quello di aggiungere la pectina, è un addensante naturale derivato appunto dalla mela che ci abbrevia i tempi di cottura, però otteniamo una marmellata più gelatinosa. Dottoressa Reverso, malto, abbiamo parlato del miele, dello zucchero di canna, malto, che cosa le dice? Il malto si ricava, è malto dei cereali, viene prodotto dai cereali, quindi possiamo avere un malto di orzo, un malto di riso, un malto di grano. Il sapore è differente, diciamo che il più delicato è sempre il malto di riso. Per chi non è abituato ad usarli, io consiglierei di cominciare da questo tipo di malto. Si può utilizzare per preparare dei dolci, bisogna stare sempre molto attenti alle dosi, perché sono comunque prodotti che dolcificano parecchio. Quello di riso ha un sapore abbastanza simile al miele. I malti resistono bene alla cottura. E quindi si può utilizzare per preparare biscotti, ad esempio. Sì, si possono usare per preparare biscotti, torte, muffins. Ci sono molte ricette nei siti internet di cucina vegano, vegetariana, dove si usano i malti. Io consiglio per chi non ha mai provato, di seguire delle ricette per le dosi, soprattutto perché il malto, essendo liquido, altera proprio un po' l'impasto. Ecco, però la mano scappa. Sì. Perché bisogna mettersi anche un po' nell'ordine di idee che si sta per scoprire sapori nuovi, ecco, perché il malto ha comunque un sapore suo. Dottor Ongaro, riduciamo, questa è la parola d'ordine di oggi, riduciamo lo zucchero, lo facciamo gradualmente, riducendo magari lo zucchero bianco che aggiungiamo nel caffè, facendo anche delle scelte alternative. Prima di andare a sentire le informazioni sul traffico, mi fa una serie di passaggi? Sì, sono un po' quello che abbiamo sottolineato anche prima, cioè il discorso fondamentale è quello di fare un passo alla volta, proprio per evitare questo effetto negativo che c'è quando si riduce drasticamente lo zucchero. In particolare il mal di testa è molto frequente, specialmente in chi riduce assieme zucchero e caffè, no? E poi è un progressivo passaggio a delle forme che sono meno impattanti sulla salute. Quindi canna, miele? Canna, miele, oppure questo che citavamo adesso del malto in alcune condizioni e per alcune ricette. Però insomma l'obiettivo finale secondo me deve essere quello di abituarsi a dei gusti meno dolci, imparare ad apprezzare di più il dolce che c'è nella natura e qualche volta concedersi l'eccezione, perché ricordiamolo sempre che l'eccezione non rappresenta il problema, il problema è l'uso quotidiano. It's very clear. Università di Chicago, 1977. Sai che ti amo? Anch'io ti amo. Not for all year. Chiamami, eh? Ti chiamo appena arrivo. No, strada facendo. Anche prima, giuro. Ti amo. Anch'io ti amo. Mi manchi già. Anche tu. Mi manchi già. Ciao. Ciao. Come sono dolci, sono innamorati, ma probabilmente mettono poco zucchero, aggiungono poco zucchero nel caffè. Sembra infatti che lo zucchero abbia a che fare anche con le nostre relazioni amorose. Ne parliamo con la dottoressa Giovanna Luini. Buongiorno, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO. Allora, dottoressa, è vero che lo zucchero andrebbe ridotto, ne stiamo parlando nel corso della puntata. Abbiamo col dottor Ongaro capito anche perché il consumo eccessivo di zucchero, soprattutto prolungato, può provocare danni alla nostra salute, ma che in qualche modo metta lo zampino anche nelle nostre relazioni amorose, questa sembra strano. Come mai? Invece è vero, perché alcuni scienziati canadesi hanno visto che un'alimentazione troppo ricca di zucchero induce il fegato a produrre lipidi, quindi grassi, e questo si sapeva, ma anche fa sì che il fegato stesso produca un po' meno ormone SHBG. Ora, sorvoliamo su questo nome un po' strano. Questo ormone in realtà regola poi i livelli di estrogeni e di testosterone. Sì. Come sappiamo, gli estrogeni e il testosterone sono i nostri ormoni sessuali. Sì. Femminili e maschili li possediamo e il loro equilibrio regola tante cose dentro di noi, tra cui anche la funzione sessuale, il desiderio, la capacità di avere rapporti sessuali piacevoli e utili alla fecondazione, quindi alla gravidanza. Se diminuisce quell'ormone SHBG prodotto dal fegato, estrogeni e testosterone non sono più in un equilibrio normale e quindi possiamo avere vari problemi, tra cui problemi sessuali. Tra l'altro non si tratta solo di problemi sessuali che possono essere, diciamo, risolti, parliamo anche di acne, infertilità, di ovaio policistico, che sappiamo essere un problema per tante donne, e purtroppo c'entra anche il tumore dell'utero. Quindi ridurre. Questa, sì. Questo è il messaggio di oggi, sì. Dottoressa Luini, grazie. Quindi se dobbiamo sceglierci un fidanzato, preferiamo un fidanzato a cui facciamo la domanda: ma sei molto zuccherato? Ma insomma, così e così, sto riducendo. Fidanzato dolce, che però mangi pochi dolci a quanto pare. Certo. È più piacevole anche il rapporto sessuale, secondo i canadesi. Grazie alla dottoressa Luini, buona giornata. Grazie, buongiorno. Ma comunque, alzi la mano chi di voi non ha provato quel desiderio di dolci, soprattutto dopo uno sforzo magari intellettuale, insomma quel qualcosa di buono che chiediamo al vicino di scrivania. Ma ci sono delle volte che la voglia di dolce non segue un performance intellettuale o mentale, ma è proprio distribuita nel corso della giornata. Ci sono delle giornate in cui la voglia di dolce, insomma, si fa sentire più impegnata. Ma cosa si nasconde dietro a questa nostra richiesta? Una richiesta impellente e una richiesta invece distribuita. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. Primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore. Eviterò di parlare del bisogno, della necessità per il cervello di zucchero, perché purtroppo è vera, ma parlerò del bisogno di dolci come spia. Spia per esempio della depressione, perché quando siamo depressi aumenta la voglia di dolci? Perché quando arrivano i dolci sale l'insulina e l'insulina manda dentro le cellule tutti gli amminoacidi che competono con il triptofano, che è invece l'amminoacido principe per fare la serotonina, e quindi gli fa fare bella figura, rimane solo, va nel cervello e fa tanta buona serotonina per noi. Ma ricordiamo che il bisogno di zuccheri per un neurologo può essere anche un falso bisogno. L'attacco emicranico può essere preceduto da un craving per i dolci, è una bufala, come si direbbe a Roma, non occorre seguirlo, non c'è bisogno di dolci, è l'attacco emicranico che si anticipa così. Anche la sindrome premestruale può essere annunciata da un bisogno di dolci, anche questa legata non a un bisogno mediato dagli ormoni, ma dalla fluttuazione umorale premestruale. E poi, sempre da neurologo, attenzione all'uso intermittente di dolci in quantità notevoli, perché può dare dipendenza. La nostra testa è strana e quando assumiamo a intermittenza quantità cospicue di zuccheri, liberiamo nel nostro organismo dopamina, acetilcolina e oppioidi e siamo euforici, ne diventiamo dipendenti. Non solo, la corteccia del gusto dolce smista l'informativa ai centri del movimento e smaniamo. Avete mai visto come si mangiano quattro palmenti le torte? E a volte diventiamo rossi in viso e sudiamo, perché viene smistato il messaggio anche alla vita vegetativa. Quindi lo zucchero per il cervello è una necessità, ma cerchiamo di dare consigli pratici. Se la necessità c'è, non facciamo grandi abbuffate. Gli zuccheri che sono a noi consentiti, frazioniamoli nel corso della giornata. Piccoli rifornimenti faranno lieto il cervello. E se per l'umore qualcosa dobbiamo fare con i dolci, cerchiamo di mescolarlo con l'esposizione al sole, che è una notissima metodica non farmacologica antidepressiva. E poi, a volte noi facciamo enormi faticate che rendono necessario un ricorso agli zuccheri, non solo per i muscoli che sono stancati, ma per il sistema nervoso che si è stressato in attività fisiche e sportive incongrue. Facciamole in maniera costante e un po' meno stressante. Metteremo d'accordo i bisogni del mio cervello e i bisogni anche del nostro metabolismo, che ne vogliono poco. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi. Arrivederci, grazie per i suoi consigli. Avete sentito quel suono? 349-238-6666, vi invito. Dottor Ongaro, in chiusura di trasmissione, vogliamo fare un ABC dello zucchero? Un ABC dello zucchero nel senso degli effetti. Allora, certo. Ovviamente quello che diceva adesso il professore è vero, tuttavia ricordiamoci sempre che la produzione di quella componente di zucchero che serve davvero alle nostre cellule avviene molto bene nel nostro organismo e quindi le aggiunte in eccesso non sono necessarie. D'altra parte, ripeto, ci sono molti dati, sempre più dati, che indicano non tanto quanto lo zucchero sia dannoso, ripeto, nell'uso saltuario, ma quanto ci siamo abituati a mangiare una quantità enorme di zucchero quotidianamente. Questo articolo su Nature è molto interessante per questo motivo, perché indica veramente una deviazione dalla norma che è anche accaduta, ricordate, in pochissimi anni. Certo. Cioè è la rapidità con cui noi abbiamo aumentato il nostro introito di zucchero che ha in qualche modo scioccato i nostri organismi ed è assolutamente connessa poi con l'aumento epidemico di obesità, diabete di tipo 2, eccetera. Quindi bisogna rivedere un po' le nostre abitudini. E noi proveremo a farlo anche con le ricette di Mangia con me della dottoressa Paola Reverso. Le trovate sul sito. Dottoressa Reverso, dottor Ongaro, un saluto. E noi invece ci sentiamo domani dopo il GR delle 11.